Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Ho valutato che se noi non avessimo avuto l'iniziativa che cercasse di governare i flussi migratori, noi avevamo una rischio molto serio per la tenuta sociale e democratica del nostro paese. I sindaci, e poi arriverò un attimo anche ai sindaci libici, i sindaci italiani sono per me i migliori alleati nelle politiche di sicurezza e nelle politiche di accoglienza. E tuttavia, quando in quei giorni ho visto che un sindaco o un altro sindaco, di fronte al fatto che si chiedeva un'accoglienza per 35-50 migranti salvati, mi diceva di no. Quando ho incominciato a vedere che da qualche parte qualcuno incominciava a costruire barricate, era chiaro che quella linea delle barricate era sbagliata, ma ho compreso anche che forse qualcosa rischiava di rompersi nel tessuto connettivo. Eccolo qua l'uomo del momento, Marco Minniti, il ministro dell'Interno, che insomma, fortuna, mosse azzeccate, coincidenze astrali, insomma, sta raccogliendo i frutti del fatto che sono diminuiti gli sbarchi. Un problema, il problema forse, magari sopravvalutato dai media se volete, ma il problema di questi mesi, di questi anni, di questi decenni, non si parla praticamente d'altro. E allora però Minniti dice è a rischio la tenuta del paese, lo dimostra per esempio quello che è accaduto a Roma ancora due sere fa, una rissa tra migranti e residenti al Tiburtino. Io non ci voglio più qua, io non li reggo più, non siamo razzisti, ma adesso basta. La tolleranza è finita, è finita la tolleranza, non c'è più tolleranza, ragazzi. Parlo per tutto il popolo italiano, questi stanno a fare i padroni al paese nostro. Non siamo razzisti, però se devono comportare bene, se no se ne devono andare. A me 40 contro 1 mi sono usciti fuori ieri sera per provare a liberare una donna e un bambino, sono entrato io a tirarli fuori dal cancello, sì. Mi hanno aggredito un 40, bastoni, bottiglie, uno pure in coltello, senza far nome perché io non gli faccio, però intanto sono una mandica, sono bastardi dentro perché sono cattivi, cioè queste parolacce io manco euro perché io non sono razzista, però sono cattivi dentro, questi non sono tutti bravi, alcuni lavorano e alcuni fanno quello che fanno, devono andare al paese loro quelli che fanno così, noi vogliamo solo gente pulita, non siamo razzisti e ve lo ripeto da capo. Allora, l'uomo del momento, Marco Minniti, il centrodestra, la Lega in queste ore, in questi giorni agostani, ancora non si sono espressi apertamente sull'operato di Minniti, che però sta realizzando in parte quello che è l'obiettivo numero uno, per esempio, della Lega, fermare l'immigrazione, diminuire gli sbarchi, diminuire il numero di migranti che vengono in Italia. Un elogio a Minniti, dopo Milena Gabanelli, icona della sinistra e del Movimento 5 Stelle, arriva anche, per esempio, da un altro insospettabile, non particolarmente amico di Renzi o del governo Gentiloni come Marco Travaglio. Ma io credo che non ci sia nulla di male, anzi sia doveroso riconoscere che dopo 25 anni di chiacchiere, di derby destra-sinistra, piagnistei, annunci, promesse, speranze, c'è un ministro che sa di che cosa sta parlando, c'è un ministro che quando va in Europa non viene preso a pesci in faccia, c'è un ministro che fa delle proposte concrete e che indica una possibile soluzione non al problema dell'immigrazione, ma alla sua gestione nei limiti del possibile. Si può fare, stiamo insieme fino alle 20. Buonasera ad Alessio Maurizi, 800 24 00 24. Però le critiche a Minniti, che adesso vi facciamo risentire ancora, arrivano soprattutto da sinistra. Problemi che sono stati ributtati in Libia, in Niger, dove ci sono non campi di non centri di accoglienza, ma centri di detenzione, campi quasi di concentramento, lager. Ci sono delle mezze inchieste che sono state pubblicate in cui si fa vedere ancora una volta come in quei posti i migranti vengano sottoposti a trattamenti inumani, non c'è presenza di organismi internazionali. Insomma, la sinistra scalpita perché perché Minniti avrebbe semplicemente fatto un accordo, che è quello che poco fa tra l'altro è stato smentito dalla Farnesina, quasi con i trafficanti, come dire, teneteveli voi, chi se ne frega, gli ultraumanitari qualcuno li ha definiti, le persone che in questo momento si preoccupano di quello che accade in Libia. Questa è la critica che viene fatta a Minniti. Io però mi chiedo e vi chiedo, è un problema del governo italiano, l'ho detto anche ieri sera, quello che accade in Libia o in Niger? Allora dovremmo andare a liberare la Libia dal regime che c'è, il Niger, l'Egitto anche. Lo chiedo a voi, è un problema dell'Italia? Io credo di no, è un problema internazionale sicuramente, però... 800 24 00 24, vi faccio sentire quello che dice su questo Moni Ovadia. Per me chi fugge dalla disperazione deve avere titolo per essere accolto, poi le modalità dell'accoglienza si discutono, si verificano. La vedo molto dura che si riesca a stabilire luoghi per la cosiddetta detenzione dei migranti in paesi nordafricani che ignorano il significato della parola democrazia, lo stato delle cose e diritti civili e diritti umani. E sancire una distinzione fra migranti, cioè quelli per la guerra e quelli economici, questo cosa vuol dire? Se stai morendo di fame crepa? Cioè questo sarebbe un atto di civiltà? Io non lo capisco. Altra questione è il reddito di inclusione. Anche qua si discute se, come dice Gasparri, Brunetta è una mancia tardiva, una mossa insignificante del governo che cerca di mettere una toppa sulla crisi delle famiglie italiane, oppure se invece è un aiuto concreto. Si parla di 600.000 persone, fino a 480 euro per chi ha un reddito inferiore a 6.000 euro. Ministro Poletti. Noi partiamo dalle famiglie con dei minori perché sappiamo che i bambini sono quelli che soffrono di più da questo punto di vista, ma l'obiettivo naturalmente è quello di raggiungere tutti. Partiamo da 500.000 nuclei familiari, quindi circa 2 milioni di italiani, l'obiettivo è raggiungere tutti da una parte con sostegno economico e quindi con un sostegno al reddito e dall'altra parte con un progetto che li aiuti a uscire dalla loro condizione, perché noi vogliamo l'inclusione, quindi vogliamo che ognuno possa, tra virgolette, essere in grado di mantenersi, di vivere pienamente la propria vita. Rispondere a una condizione di disagio sociale diffusa come Italia con questa elemosina e dall'altro lato non fare una vera battaglia per diffondere il lavoro, perché la risposta alla povertà non è l'elemosina, la risposta alla povertà è il lavoro, è la piena occupazione. Amici italiani, svegliatevi, indignatevi, perché il quotidiano britannico Guardian ha lanciato una campagna contro uno dei campioni del nostro Made in Italy, cioè il prosecco. Non bevetelo perché rovina i denti, cioè troppo zucchero, che sinceramente, detto dal paese dove ci si rovina spesso e volentieri il fegato e anche il cervello di whisky o di birra, fa un po' sorridere, però tant'è. La Gran Bretagna però per il prosecco italiano rappresenta quasi un quarto di tutto il mercato mondiale, e allora ci si domanda cosa ci può essere dietro a questo attacco del Guardian, di un grande organo di informazione inglese, contro il prosecco italiano. C'è più zucchero nel prosecco che nello champagne? Non lo so, io ve lo chiedo. 800 24 00 24. Su Made in Italy ieri Giorgia Meloni ha preparato una bella caprese per spiegare in soldoni che cos'è per lei la politica. Allora, perché facciamo la caprese oggi? Caprese, pomodoro. Noi facciamo questi gesti semplici e quello che stiamo tagliando è un prodotto italiano. Il problema è che non sempre noi nella grande distribuzione troviamo un prodotto italiano, perché la grande distribuzione spesso compra dall'estero e i pomodori italiani delle volte neanche vengono raccolti. In Sicilia il pachino 20 centesimi glielo pagano agli agricoltori e loro delle volte non lo raccolgono perché non gli conviene, e noi ci mangiamo il pomodoro spagnolo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Like the legend. Siamo arrivati a una stretta abbastanza forte, come dice lei, e questo è dovuto a una stagione siccitosa davvero straordinaria. La rete dei pluviografi gestiti da CO2 nel territorio del Comune di Roma dimostra che vi è stato dall'inizio dell'anno a oggi una precipitazione che è inferiore alla metà della precipitazione storica. Questo ha comportato una riduzione molto significativa di alcune delle principali fonti di approvvigionamento idropotabile a servizio della città di Roma e Fiumicino. A questo si è aggiunto naturalmente la limitazione imposta dall'autorità preposta ai prelievi dal lago di Bracciano. Il combinato disposto di queste situazioni ha fatto sì che nella prospettiva di settembre il quantitativo d'acqua a disposizione di Aceato 2 è insufficiente per fare fronte al fabbisogno idropotabile. Questo signore qua è il presidente di Aceato 2, Saccani, uno dei responsabili del casino che sta succedendo a Roma, possiamo dirlo? Roma senza acqua, acqua razionata la notte, un centinaio di quartieri che hanno l'acqua razionata e questa è la situazione. Certo, c'è il clima torrido, però c'è anche l'acquedotto che perde acqua da tutte le parti e a furia di prelevare dal lago di Bracciano, anche il lago di Bracciano si sta prosciugando. E con noi il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le domandiamo, con l'emergenza acqua di questi giorni a Roma, rischiamo anche di fare, per quel che conta, per quel che vale, però ce lo vogliamo mettere anche questo carico qua, una figuraccia a livello internazionale, perché l'emergenza riguarda anche gli alberghi romani e qualche turista comincia a chiedere spiegazioni. Che sta succedendo, Roscioli? No, addirittura noi saremo costretti a chiudere perché non riusciamo a garantire i livelli di igiene, perché non possiamo rifare i bagni, non possiamo lavare le tazzine per la colazione la mattina, ma più che altro anche sulla sicurezza. Considerate che gli alberghi sono dotati di un sistema antincendio che funziona con l'acqua, se l'acqua non arriva l'antincendio non funziona. Quindi costretti... per esempio ci sono alberghi nei quali l'antincendio adesso non è, il servizio antincendio, quello automatico che parte normalmente, non è garantito? No, al momento sì, perché al momento è garantita l'acqua, però sì. Se dovessimo andare, come dice quelle signore che ci ha preceduto, probabilmente qualche albergo, non tutti, ma qualche albergo ci avrà numerosi problemi. Dovrà allontanare i clienti che ha dentro l'albergo e non far entrare quelli nuovi. Io una cosa del genere in altre capitali del mondo non ho mai sentita. Ma fino ad ora si tratta di disagi che riguardano soprattutto i gestori degli alberghi, oppure, glielo chiedo, che stanno ricadendo anche direttamente addosso ai turisti? Sarà così anche per loro, certamente, ma noi non potremmo tenere un turista che non si può fare la doccia, perché se non si può fare la doccia, come dicevo prima, non riusciamo a garantire gli standard minimi di sicurezza e di igiene, per cui saremo costretti a dirgli: signore, se ne può andare in un'altra capitale di qualche altro stato, ma non a Roma. Che non è una brillantissima conclusione, no, di una vacanza a Roma. Ho sentito prima che già sul Prosecco ci fanno la guerra, figuriamoci se vengono a sapere una cosa del genere, che noi cacciamo i clienti perché non abbiamo l'acqua, andiamo a finire sui telegiornali di tutto il mondo. Ma è veramente una cosa che in una capitale non dovrebbe mai succedere. Senta, di chi è la responsabilità di quello che sta succedendo secondo voi, secondo il suo punto di vista? È un operatore economico che sta comunque nella città di Roma? Ma guardi, io credo che questo, come al solito, significa una mancanza di attenzione di anni, perché col fatto che magari questo fatto non era mai successo, o comunque di questa gravità non si ricordava, probabilmente nessuno si è creato il problema che abbiamo un 40% di acqua che se ne va nelle tubazioni non in perfetto stato, quindi probabilmente con una prevenzione fatta in tempi debiti quando si doveva fare, forse questo oggi non sarebbe successo. E poi anche questa lite fra Bracciano, il comune, la regione, Roma, insomma, io credo che se è una riserva, e le riserve di solito si usano quando c'è un'emergenza, adesso andare a dire che è una riserva ma non si può usare perché la fauna potrebbe avere problemi quando ci sono i cittadini che hanno i problemi, insomma, io francamente sono di tutt'altro parere. Senta, ma gliel'ho già chiesto, fino ad ora i turisti non si sono lamentati, non è venuto fuori niente, perché insomma può anche starci che alla fine qualcuno anche di fronte a qualche disagio possa, come dire, metterla sul pittoresco. Uno fa una vacanza e poi si porta dietro anche questo particolare ricordo, tanto no, non credo che pensino di Roma tanti turisti che siano diciamo la capitale di un paese ultra sviluppato, anche se poi non è così, l'Italia guardi, a luglio era già successo. adesso, c'è stato sì. l'annuncio che sarebbe stata tolta l'acqua e alcune disdette sono arrivate. Ma per il semplice motivo che lei andrebbe a Parigi sapendo che quando va lei non c'è l'acqua neanche per farsi la doccia, probabilmente sceglierebbe un'altra città, direbbe non vado a Parigi, vado a Londra, vado a Barcellona, vado a New York. No, soprattutto quindi... non me lo aspetterei da una città da certo, cui, la cui immagine è l'immagine di organizzazione certo. di efficienza. Però... Quindi oltre il danno anche la beffa, perché poi ecco, andiamo a finire sui media internazionali con una figura che insomma francamente non ci meritiamo. Quando però la situazione sembrava meno grave e venne razionata l'acqua, vennero anche chiuse le fontanelle a Roma, ci fu qualcuno che ebbe da criticare questa che era probabilmente invece una scelta saggia per cominciare comunque a risparmiarla un po' d'acqua. Il Codacons fece addirittura ricorso, quindi era giusto in quel momento intervenire in quel modo? Io penso di sì, ma vede, purtroppo questo è l'Italia, nel senso che quando si fa un provvedimento magari di urgenza c'è sempre qualcuno che dice che non va bene. Il caso è stato questo delle cosiddette nasone, quindi diciamo dell'acqua che andava a perdere, e quindi probabilmente in questo momento di difficoltà, se fossero chiuse o comunque con dei rubinetti, come funziona in tutto il mondo, perché anche in altre parti del mondo ci sono dei distributori di acqua gratuiti, ma con dei rubinetti in maniera che non si spreca, solo noi la sprecavamo. E però c'è qualcuno che si è lamentato, e la stessa cosa con Bracciano, c'è sempre qualcuno che si lamenta. Allora probabilmente questa è la nostra Italia, però credo che dobbiamo fare un salto di qualità da questo punto di vista culturale, proprio noi dobbiamo metterci a livello di altre città con una prevenzione programmata su tutta una serie di emergenze che ormai noi cittadini romani e i turisti altrettanto vivono ormai da diversi anni. Perché il decoro, le buche, la criminalità, la legalità, l'abusivismo, l'acqua, voglio dire, ormai Roma vive in uno stato di emergenza continua ormai da troppo tempo. Noi ce l'auguriamo che si faccia questo passaggio, come diceva lei, questo salto di qualità, e lo auguriamo soprattutto ai romani. Grazie Roscioli. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Questa grazie. È la situazione Federalberghi Roma per quanto riguarda la mancanza d'acqua. Andiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ricordo. Fabio da Bologna, benvenuto, vai. Ah, salve. Dunque io volevo fare una testimonianza sulla mia conoscenza dell'Africa, cioè io vedo gli immigrati che arrivano e vedo anche perché proprio vicino a casa mia c'è un centro di raccolta dei profughi e a Bologna parliamo? Sì, un centro di, come li chiamano questi centri, dove vengono diciamo trattenuti in attesa di... In realtà noi stiamo aiutando tutto meno che le persone che realmente hanno bisogno, perché se uno va in Africa vede lì la vera miseria, queste persone che stanno arrivando, che attraversano sì il deserto, attraversano il mare, però non sono assolutamente quelli che realmente hanno bisogno di aiuto. Perché dici questo? Io vorrei... Perché dici questo? Perché è palese, basta vederli, cioè... Io diciamo vorrei invitare tante persone che credono di fare del bene e credono di usare diciamo correttamente i denari italiani, e dovrebbero tutti andare a fare delle visite in certi stati, in certe zone dell'Africa, e si renderebbe immediatamente conto che noi non stiamo aiutando quelli che veramente hanno bisogno. Mettiamola così, però te la domando così, ti faccio questa domanda, te la giro così. Non stiamo aiutando, tu dici, e questo è possibile che sia vero, quelli che hanno più bisogno in Africa, ma quelli che arrivano in Italia sono persone che non hanno bisogno, cioè secondo te la teoria dello stanno bene, sono in forma, sono ragazzoni, hanno il cellulare? Sì. Cioè uno mette a rischio la propria vita, tutto, se ne viene in Italia senza più avere niente in mano, perché arrivano senza niente in mano, pur essendo diciamo benestante. Allora, io ho sentito parlare, non so se è vero, che queste persone pagano degli scafisti, pagano delle persone per arrivare. Quindi già se hanno qualcosa da pagare è come se invece di aiutare il barbone veramente povero sotto il portico a casa sua, lei guarda e va a aiutare uno che in realtà ha qualcosa in tasca. Allora, perché proprio se proprio dobbiamo aiutare le persone più povere, non stiamo facendo la cosa giusta. Cioè ma un africano persone. Che riesce, un senegalese che riesce a mettere, un siriano che riesce a tirare su 3-4 mila euro per pagarsi il traffico, il viaggio, un siriano dove, sì. dove c'è la guerra in Siria, è uno che cosa dovrebbe fare con questi 3 mila euro? Starsene no, allora, in Siria? Io distinguerei il siriano o l'etiopico che sfugge da una dittatura, quello è un discorso a parte. Sì. Però indubbiamente in mezzo a questi io vedo senegalesi, vedo del Chad, vengono da tutte le parti dell'Africa, perché indubbiamente se lei ha la possibilità, investendo magari 500, adesso non so la cifra, di andare in un paese ed essere ospitato e foraggiato e per loro quello che noi vediamo, anzi quando noi crediamo di dargli poco, in realtà io che conosco l'Africa posso dire che... Dove sei stato in Africa, Fabio? Dove sei stato in Africa? Anch'io. Io sono nato in Etiopia. Tu sei nato in Etiopia? Sì, sì. Quindi ho visto e diciamo conosco abbastanza, un pochino per poter dire che... Certo, la mia ma ci sei anche tornato in Etiopia o in Africa recentemente? Anche ogni tanto, perché io poi sono dovuto scappare dall'Africa quando c'è stata... diciamo il colpo di stato in cui venne sì. ucciso. Ma quindi tu sei entrato, scusami, tu sei entrato con una forma di protezione di tipo profugo? No, io sono italiano, sono bianco e ero okay. sono nato in Africa, però quando dovemmo scappare dall'Africa in effetti poi venimmo accolti in Italia. Faccio parte di quelli che dovettero scappare dall'Etiopia quando ci fu il colpo di stato in cui venne, dopo il quale venne ucciso anche Haile Selassie. Va bene. Però, no, non è questo il punto, è che veramente io vorrei invitare tanti ad analizzare bene questo tipo di aiuto che stiamo dando, un po' poco logico. Va bene, grazie Fabio, buona serata. 800 24 00 24, torniamo dopo la... Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fold. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Allora, intanto al 349-238-6666 c'è chi scrive. Quindi è colpa della Raggi, a proposito della siccità a Roma, ma vergognatevi faziosi, leccaterga, lo voglio dire così, tanto per mantenere un po' il livello della discussione, faziosi, leccaterga, renziani. Allora, intanto, caro ascoltatore o ascoltatrice, vergognati tu di offendere, insultare così a stracavola, senza ragione, perché... La Raggi non l'ho proprio citata, oltretutto. Non ho detto la parola Raggi, non ho detto la parola comune, non ho detto la parola giunta. Abbiamo parlato del fatto che con la siccità si rischia di fare una figuraccia anche coi turisti, perché tra poco il razionamento dell'acqua arriverà anche negli alberghi. Pensate cosa potrebbe succedere se da qualche parte il sistema antincendio non dovesse funzionare, come ha detto il presidente di Federalberghi, perché non c'è l'acqua. Ora, può darsi che Federalberghi esageri in questo allarme, può darsi che Roscioli ce l'abbia a prescindere con la Raggi, ma io non l'ho proprio citata. È un problema è all'ordine della discussione. È colpa della Raggi, è colpa anche del sindaco, è colpa del comune in questo momento se c'è la siccità a Roma. Ditelo voi, io questo non l'ho detto. 800 24 0024, anche se è possibile, perché poi tutto ricade comunque in testa al sindaco. Se dovesse succedere quello che ho detto, sicuramente le polemiche non mancherebbero, ma non lo dico io non l'ho detto, non l'ho proprio citata la Raggi. Quindi, amici del 5 Stelle, non fate sempre il piagnisteo a prescindere, anche quando non si è tirato in ballo nessuno. Alberto da Roma, vai. Eccolo Alberto da Roma, dottore Maurizio. Ammazza, oh Alberto. Alberto da Roma, sei in forma. Ma c'è il sangue agli occhi. Dici tutto, dici tutto. Tutto perché. Allora, innanzitutto complimenti a signora Gabbanelli, che è una grande giornalista, però se l'ha veduta e non capisco che sta a fare con la comicona della sinistra. E uno. Secondo, si riferisce all'appoggio dato a Minniti, immagino. Che cosa? Si riferisce, Alberto, all'appoggio dato alla Gabbanelli a Minniti. No, mi riferisco al fatto che del welfare che sparisce se continua. Sì. Allora, ci sono tre quartieri a Roma, Colli Anieni, Tor Sapienza, Rustica e Ponte di Nona, che tutti i giorni e notte sono invasi dai roghi tossici. Io vorrei sapere, roghi tossici giorno e notte, i ragazzini che si intossicano, i nipoti. Io vorrei metterci i figli o i nipoti loro, del Gentiloni, del ministro d'ambiente, primo. Secondo, poi questi sempre impuniti, i zingari sono intoccabili, sono impuniti. Secondo, stavo a Roma vicino alla stazione Termini con mia moglie. Allora i zingari ci intossicano, i negri ci cacciano via. Stavo con la macchina a aspettare mia moglie una via tra la stazione Termini e Piazza Vittorio. I negri mi hanno cacciato via con le bottiglie in mano. E queste sono le risorse che dice il Papa e che dice pure il governo. Queste sono le risorse, Boldrini, sì. Le risorse sono queste. La busta che accola tra la stazione Termini fino a Porta Maggiore è una latrina, è una chiavica. Pisce, non dove si trovano questi, pure le fermate dell'auto. E poi sì, venissero a vedere nelle periferie come stiamo, altro, perché loro arrivano nei quartieri meravigliosi. Alberto, io non so se lei fa finta o se è così anche nella vita normale, perché è infogliatissimo. Come fa finta? No, perché sembra... Ma non so se lei è infogliatissimo, sì. Siamo tutti infogliatissimi a quei quartieri. Le faccio sentire, le faccio sentire e la saluto. Sì. Un'altra cosa. Anche due, sì. Se Gentiloni, io ho quattro figli, non ho mai potuto riportare in piscina. E il prete li porta in piscina. Io dico io perché li porta in piscina. Non ha mai portato i figli in piscina, Alberto, perché non le piace l'acqua? Non le piace l'acqua? Perché non l'ha portato in piscina i figli? Perché sono una possibilità dei ragazzini. Io facevo loro che a malapena tiravo a campare, se non mi aiutava mia sorella. Ho avuto bisogno di aiuti. Ma in piscina ho potuto riportare questi negri. Però Alberto ci sono i servizi sociali, glielo ricordo, perché ci sono i servizi sociali e quando uno ha bisogno danno una mano. Comunque le voglio dedicare Minniti, visto che lei mi sembra che sia d'accordo con Minniti, sta muovendo bene Minniti, il ministro? È in Germania. No, vabbè, non ci ascolta. Ciao Alberto, nessuno ciao. Gli ha pagato. Sì, va bene, grazie, buona serata, perché sennò questo va avanti fino a domani sera. Li dedichiamo, ascolti Minniti, vediamo. Vai. I sindaci, e poi arriverò un attimo anche ai sindaci libici, i sindaci italiani sono per me i migliori alleati nelle politiche di sicurezza e nelle politiche di accoglienza. E tuttavia, quando in quei giorni ho visto che un sindaco o un altro sindaco, di fronte al fatto che si chiedeva un'accoglienza per 35-50 migranti salvati, mi diceva di no. Quando ho incominciato a vedere che da qualche parte qualcuno incominciava a costruire barricate, era chiaro che quella linea delle barricate era sbagliata, ma ho compreso anche che forse qualcosa rischiava di rompersi nel tessuto connettivo. Siamo qua. Renzo da Monza, benvenuto. Sì, buonasera, siamo Renzi. Eccoci, vai. Mi sente? Forte e chiaro, Renzo. Senta, io volevo sollevare no, chiaro no, che... chiaro no Renzo, chiaro no, anzi vediamo di risentirlo tra un attimo. Renzo si metta in un posto dove prende bene il telefono, spenga la radio, ci ascolti solo per telefono perché così non va. Claudio da Prato, vai. Sì, buonasera. Dicevo, io sono dispiaciuto di dover dissentire da Monio Varia, che considero un grande intellettuale, ma non è così che si ragiona. Perché lei, il signor Monio Varia, che è pure una persona intelligente, non è in grado di distinguere nella massa di quelli che arrivano i veri bisognosi dai i bisognosi falsi. Nel senso che noi abbiamo scatenato una cosa che mi ricorda sgradevolmente che cosa fece Fidel Castro negli anni 60-70, quando gli americani lo accusavano di essere un brutale dittatore, a dimostrazione che non lo era, caricò una nave, liberandosi di tutti i detenuti che aveva in prigione, dicendogli: cioè, se sono in prigione sono politicamente scorretti, ve li regalo tutti perché sono dei vostri. In realtà gli regalò tossici, delinquenti, mafiosi, stupratori e via andare. Cioè, noi non abbiamo il controllo di quello che arriva, non abbiamo un referente che ci dice questo è il bisognoso serio, questo è l'infiltrato, questo è il delinquente, questo è il sopravvissuto a un genocidio, e questo è il nocciolo del problema. E che Mennifi se ne accolga ora, non vorrei che si facesse come gli dinosauri, che mi sembra gestasse e avesse una gestazione che durava 24 mesi, e che se ne accorge ora che questa è la situazione? Vabbè, meglio tardi che mai. Ma si rende conto? Forse. Cioè, qui bisogna uscire dall'equivoco. Oltretutto mi permetta, poi la lascio, sì, un'ulteriore osservazione. È vissuto, esperienza vissuta personale. Le dico che nella parte di quelli che arrivano da noi, una parte sono eccezionali. Sono ragazzi su cui ci si potrebbe costruire veramente un futuro, perché sono capaci, perché hanno cultura. Perché ma è ovvio, c'è dentro tutto, no Claudio? C'è dentro tutto, ci sono, come dici tu, quelli eccezionali, ci sono magari anche avanzi di galera, aspetti, ma il problema io lo ribalto e dico: questi ragazzi che qui dai ingegneri nucleari sono costretti a fare il magazziniere, oppure le pulizie alle strade, oppure l'operaio semplice, ingegneri nucleari, forse sarebbero più utili al loro paese. Cioè, noi abbiamo anche quest'altro rischio, che stiamo spopolando una percentuale intellettuale valida che potrebbe essere la classe dirigente di futuro dell'Africa, e questo è la condanna definitiva di un continente alla morte. Sì, però decidiamoci, Claudio, perché o stiamo importando i peggiori, i criminali, quelli che no, oppure stiamo importando i migliori. Noi stiamo importando di tutto. E stiamo svuotando l'Africa dei cervelli. Noi questo bisogna decidersi, sì. Allora, facciamo un altro esempio ancora più concreto. Ho avuto occasione di parlare con le prostitute nigeriane che hanno, diciamo, che si muovevano nel paese Italia, va bene? E tu, rarissime erano le prostitute nigeriane, ragazzotte sfruttate via discorrendo, che non sapesse due lingue. E allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, noi non abbiamo il controllo della situazione. Punto. Questo è il nocciolo del problema. Non siamo in condizione di discernere e di selezionare e di fare uno screening su che cosa arriva. E quindi non siamo... Diciamo, sì, però il punto, Claudio, il punto, e io ti ringrazio, è che secondo Monio Vaglia, secondo una parte della sinistra, che in queste ore sta criticando molto Minniti, noi dovremmo accogliere tutti quelli che vengono da certe zone dove ci sono guerre o carestie o siccità, eccetera, eccetera, per questioni umanitarie, altrimenti, facendo come fa Minniti, che in qualche modo chiude i canali degli sbarchi, siamo complici di reati umanitari, crimini umanitari. Questa è la tesi di Monio Vadia e di una parte della sinistra. Chiaramente non è il suo punto di vista, Claudio, ma è il punto di vista di una parte degli italiani, parte minoritaria credo in questo momento. Se ci fosse un sondaggio, probabilmente Minniti in questo momento avrebbe elevati gradi di apprezzamento. 800 24 00 24, siamo qua anche dopo il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I Allora, intanto ringrazio Anna per il suo messaggio a 349-238-6666, ma non vi dico il perché, lo sa Anna. Poi vi leggo questa. Non sembra, ma Minniti è intelligente. Vabbè, questa non è male. E saluto Michela Rosetta, sindaco di San Germano Vercellese. Benvenuta. Buonasera. Che ha annunciato due giorni fa multe fino a 5.000 euro nel suo comune per chi ospita i profughi o per chi non comunica al comune di aver ospitato i profughi, se abbiamo capito bene. È così? Non è proprio così, nel senso che questo è una delibera preventiva. Nel mio comune io non ho migranti economici, profughi, clandestini, non ne ho. Sì. È diciamo uno strumento per evitare che arrivino. Non è che arrivino, possono anche arrivare, non è un problema che arrivino meno, ma devono arrivare secondo delle caratteristiche ben precise. Cioè, perché, un privato non se le mette nel suo appartamento dicendomi che quello è un nucleo abitativo. No, il privato, se le vuole mettere, risponderà a quelli che sono i parametri urbanistici. Innanzitutto mi avvisa perché una scelta di questo genere ha delle ricadute a livello di ordine pubblico, a costi amministrativi, sociali, perché non è un problema dell'accoglienza diffusa, è un problema di avere dei progetti di integrazione di queste persone. Assolutamente, ma scusi, la domanda è, non è già così, cioè se i privati attraverso il sistema SPRAR o altri metodi d'accordo con la prefettura ospitano dei richiedenti asilo o addirittura dei profughi, il comune non è direttamente informato di questo? Direttamente informato sì, però devono anche rispettare quelle che sono le norme, perché se tu me le metti dentro ad una abitazione privata non mi sta bene, perché quella funge come un albergo. Cioè, se loro pagano una diaria, io lo faccio dal punto di vista mio da sindaco, io dico ma come, lì non ho una struttura privata, lì ho una struttura pubblica. E quindi se è una struttura pubblica ha norme, deve rispondere a norme ben specifiche e ben dettagliate, perché altrimenti se un privato affitta una stanza a un amico, a un familiare o a chiunque che non sia un profugo, non deve comunicarlo. Cioè, perché uno che affitta e viene in comune per chiedere la residenza mi deve portare tutte le certificazioni, deve avere un lavoro. Ma un conto è chiedere la residenza, un conto è ospitare qualcuno a pagamento, affittare una stanza. Peccato che a queste persone io le debba riconoscere la residenza, però. Tra l'altro bisogna sempre denunciare in questura, no? L'accoglienza, l'ospitalità, denuncia l'ospitalità. E di conseguenza, però se ci vuole uno strumento per mettere un punto... Le vuoi fare, vuoi lucrare a mio avviso, questo è il mio pensiero, vuoi lucrare sulla accoglienza diffusa, poco diffusa, quanto diffusa, parliamone. Anche perché bisogna tenere presente dove vengono contestualizzate queste persone. Allora, io non ho industrie, non ho fabbriche, non ho artigianato, ho solo conduzione agricola, perché il mio è un paese agricolo. E quindi? Allora, se il prefetto mi dice che sono migranti economici, mi chiede quale domanda di mercato ho dei miei agricoltori e al limite se ne può parlare. Ma non mettermi dentro persone che magari non so chi siano, non so da dove vengono, perché mi porti in casa. Diciamo, per la sua esperienza, lei adesso ha detto che non ne ha di migranti, di profughi, quindi ragionamento preventivo, oppure sa che negli altri comuni questo dialogo col comune non c'è? Abbiamo avuto testimonianze, certo. No. Quindi vengono portati lì e basta, lei vuole sapere chi arriva, possibilmente qualcuno che si possa inserire nel suo territorio, nel suo comune. Ma è l'obbligo questo mi sembra logico. Però le voglio chiedere, visto che voi non avete industrie, tutto sommato, se c'è un pensionato al minimo, una persona senza lavoro, un disoccupato, un esodato della Fornero che ha o una seconda casa o una stanza all'interno dell'appartamento che vuole affittare e si fa dare dalla prefettura quella quota che viene data per i profughi, perché lei glielo vuole impedire a questa persona di avere una piccola integrazione al reddito, che in molti casi avviene? Allora, perché una anche piccola integrazione al reddito lo deve dare lo Stato. Io qua ho gente che vive con 500 euro. Ma qui è lo Stato a pagare, è la prefettura a pagare. Lo Stato che paga, però le responsabilità ricadono poi sui sindaci. perché queste persone che vengono qui, che non hanno lavoro, che non sono integrati, che non c'è un progetto di integrazione, alfabetizzazione, tutto quello che ne consegue, i grandi paroloni, ma il dato pratico non c'è. Io le vedo a gironzolare, ragazzi molto giovani a gironzolare, qualcuno, qualche sindaco, pervenista, buonista che sia, dice che no, vengono integrati nei lavori socialmente utili. Parliamo dei lavori socialmente utili. Quanto costa ad un comune aprire un lavoratore socialmente utile? Utile, assicurazione, INPS, INAIL, eccetera. Sono costi che vanno su un comune. Scusi, però cioè, adesso io non la seguo più. Non la seguo più. Cioè, finché lei dice che vuole sapere chi arriva e vuole concordare con la prefettura, io personalmente le do tutta la ragione del mondo, però... se mi dice che i lavori socialmente utili hanno un costo maggiore della resa, questo perché i comuni spesso non sono in grado di mettere su dei progetti seri. I lavoratori socialmente utili io li ho presi e sono persone che lavorano e li ho presi. Io ho una convenzione con il tribunale e quindi anche con persone in mobilità eccetera, quindi io si sono può fare, tanto per citare il nome del programma, si può fare. E allora io qual le dico è il problema? Solo una cosa, sì. No, il problema è serio, il problema è serio, perché se io un conto è lavoratore socialmente utile che mi arriva da una mobilità e quant'altro, un lavoro, quando mi si dice che queste persone li facciamo lavorare come li facciamo lavorare, perfetto, io voglio un progetto, voglio sapere chi sono, dove sono, che cosa hanno fatto, perché io devo capire, io devo sapere, perché io devo tutelare 1800 anime che mi hanno comunque votato e credono in me e io ci passo tutta la mia vita. Giù, quello che lei dice è comprensibile e io le do anche in parte ragione per quel che conta dal mio punto di vista, però l'obiezione che probabilmente le farebbe il prefetto è che siccome molti comuni sono contrari a fare questi progetti, a dare questa ospitalità, poi finisce che i profughi si riversano nelle grandi città e basta, con situazioni al collasso tipo quelle di Roma. C'è bisogno che ogni città faccia la sua parte. Ecco perché vi bypassano il comune. Ecco perché vi bypassano. Ecco perché voi dite no. Perché non è un problema nostro. Non è perlomeno non è un problema. Però è un problema, non è un problema, glielo domando. Glielo domando, non è un problema. Non è un no, glielo domando, non è un problema di solidarietà anche nei confronti del capoluogo. Lei sta in provincia, credo, di Vercelli. Ci saranno a Vercelli situazioni difficili, a Milano ci sono. Se tutti i comuni in provincia di Milano dicessero no, Milano sarebbe invasa dai profughi. È una questione di solidarietà, glielo domando, no. Glielo domando. Se dicessero che voi siete egoisti, lei cosa risponderebbe? No, io può darsi, sono contenta di essere egoista, perché io sono stata votata dai Missen Germanesi e ai Missen Germanesi dovrò rispondere. Io sono contenta di essere egoista, mi creda, ma senza, guardi, glielo in assoluta onestà, tranquillità e serenità. Viva la chiarezza da questo punto di vista. Assolutamente, ma assolutamente. Ma il mio è un atto amministrativo ben chiaro, ben specifico, che dice ok, le vuoi, cerchiamo di mettere, ma andiamo a vedere delle situazioni. Vengono inseriti in ruderi dove le persone magari non hanno voluto investire e le lasciano lì dimenticate da Dio, dagli uomini, da tutto. E secondo lei questa è accoglienza? No, però io le dico viva l'onestà ma abbasso l'egoismo per quanto mi riguarda. Viva l'onestà perché lei guardi, lo dice, abbasso l'egoismo perché così io non sono assolutamente egoista. L'ha appena detto. Socialmente utile invece assolutamente. No, socialmente inutile in questo caso perché lei la sua quota di profughi non se la vuol prendere. Ha tutte le ragioni di dirlo e di ritenersi egoista, però io personalmente dico viva l'onestà. Lei ci mette la faccia, però abbasso l'egoismo. Vercelli, e quindi bisognerebbe sapere cosa ne pensano gli abitanti di Vercelli, che magari ne hanno già le scatole piene, semplicemente perché tanti piccoli comuni non fanno la loro parte. Però non le voglio fare la morale, è semplicemente un punto di vista. No, è un punto di vista. Assolutamente. Guarda, senta, sono molto democratica. Per chiudere in bellezza, però, com'è finita la storia degli evasori fiscali? Che lei voleva vietare i parchi giochi pubblici ai figli degli evasori. Bene, venite bene, perché lei pensi per questa cosa abbiamo avuto, mi diceva il mio assessore non tanto tempo fa quando abbiamo fatto gli equilibri di bilancio, abbiamo avuto un incremento del 30% delle tasse pagate, in quanto hanno capito che nessuno voleva accusare nessuno, perché tutti ci troviamo in un momento di bisogno, una malattia, un decesso, qualsiasi cosa imprevista della vita, la perdita di lavoro e quant'altro, basta, il comune è aperto tutti, basta venire in comune e fare un piano, cioè, come posso dirle, un impegno nei confronti del comune, di rientro di comunità, visto proprio come valore di comunità di polis, ecco. Va bene, devo chiudere, però almeno questa si è conclusa bene, mi fa piacere, grazie Michela Rosetta. Niente, arrivederci, buona giornata, buona serata. Germano Vercellese, GR, torniamo sul... Oh, ma lo sai che alla fine Alessandro Milan ha ceduto? Non ha più voglia di alzarsi la mattina presto. Perché Alessandro Milan è diventato presbite e non riesce più a leggere i giornali per la rassegna stampa. E quindi Alessandro Milan abbandona Radio 24! Ma no, ci sono sempre. Comincio solo un po' più tardi, alle 9, con un programma fatto con voi. Cosa? Si intitola Funamboli. E con me ci saranno Veronica Gentili e Leonardo Manera. Oh, questo non molla. È attaccato alla poltrona. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some. Ma televisione così brutta io non l'ho mai vista, giuro, io ho visto qualche pezzetto di questa trasmissione. Dovevamo nascondere i nomi, le provenienze. No, nel senso l'hai detto, cioè ha fatto quattro servizi con non gli islamofi, gli islamici che stuprano, ammazzano i bambini, cioè l'hai detto, continua a dirlo, mi sembra che lo puoi dire. Manda anche un altro servizio, ci sarà un altro servizio dopo sulla ragazzina stuprata dal marocchino, fai altri servizi su questa cosa. Non ho capito, stai fanno una televisione razzista e islamofoba, così perché parliamo del fatto che sono stati, c'è una polemica, due giornali si sono occupati oggi di questa faccenda, infatti, rispetto a questa dicendo polemica, come mai non si parla di questo, di aprire la trasmissione dopo una vacanza facendo un quarto d'ora di servizi su islamici tra virgolette, perché non è successo niente a Barcellona, violenta, eccetera. Beh, quindi l'hai detto, continua a dirlo. Ma di che Raimo sta preparando un altro cartellone? Ma sì, guarda, lo vedo scrivere a cena. È al lavoro. Sta preparando un altro cartellone. C'avete un altro servizio sui negri cattivi? Non ce n'è un altro, c'è un altro servizio che dovete fare. Lo volete un'altra volta? I neri in Italia sono i peggio. Oggi hanno trovato 600 immobili però per qualcuno. Stuprano, occupano le case abusivi, pisciano per terra, non se lavano, sono i peggio. Mi sembra una meravigliosa trasmissione. No, ma guarda, non solo occupano le case, ma vanno con i furgoni contro i nostri ragazzi e ne uccidono a decina alla volta. Allora, momento che vi riproponiamo di televisione, non lo so, come vogliamo chiamarla, surreale, momento di sincerità anche tra Christian Raimo e Maurizio Belpietro, dalla vostra parte. Servizi naturalmente sono quelli classici dalla vostra parte e Raimo non ce la fa, no? Comincia a dire vai avanti così, continua a fare servizi, e a un certo punto espone un cartello che fa anche ridere perché dice non ce l'avete un altro servizio sui negri cattivi, e poi va avanti così, avete sentito, fino a che poi Raimo però dice me ne vado, e lì fa un errore secondo me, perché non si abbandona mai la contesa, bisogna sempre stare lì a combattere, stare sul pezzo eccetera eccetera, anche se devo dirvi che quando sento, vedo Belpietro, vedo l'imitazione, lo devo dire, di Crozza, non vedo più Belpietro, così come quando c'è Mannoni sul TG3 vedo l'imitazione. E vai, sentiamo il punto finale di questa disputa. È lei che non conosce il Corano, perché nel Corano c'è scritto che l'infedele va ucciso. Vabbè, è scritto nel Corano, è lei che non lo conosce. È stato bellissimo, sono felicissimo per te, veramente. Vada a casa e si lega il Corano. Il Corano, guarda, no, veramente. Vada a casa e si lega il Corano. Veramente, ciao. Adesso ci fa vedere un altro cartello, no? Vi faccio vedere Marchi un attimo, che forse abbiamo qualche novità su quello che è successo a Rimini. No, ma poi è tutto fantastico perché Raimo, se ribecchiamo, no? Cioè, Romano e Belpietro impassibile, calmo con il suo cuore e che non cambia tono. E va bene, finisce così. Altro momento di televisione invece è Vittorio Feltri che, stranamente, sulla proposta dell'assessore welfare del Comune di Milano, Maiorino, che ha proposto un po' provocatoriamente, come aveva fatto anche il sindaco di Livorno Nogarin, le case sfitte, le case vuote per i migranti, per i profughi. E Feltri, forse colto da un raggio di sole agostano, gli dà ragione. Feltri, questa idea, questa proposta le sembra convincente, ragionevole? Devo dire che sono molto preoccupato perché sono d'accordo con Maiorino, il che significa che sto rincoglionendo io oppure sta rincoglionendo Maiorino. Sì, è la mia preoccupazione di prima. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. 800 24 00 24, tra poco riprendiamo con i vostri interventi, ma adesso invece parliamo di un'altra cosa, perché sono state selezionate le finaliste di Miss Italia che si contenderanno il titolo il 9 settembre a Jesolo. Ogni anno c'è sempre qualche polemica, non poteva mancare anche quest'anno. È con noi il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, benvenuta, buonasera. Buonasera a voi e radioascoltatori e le radioascoltatrici. Allora, sindaco o sindaca, come preferisce essere chiamata? Ma è uguale, va è bene uguale. Come preferite voi. Sì, allora, sì. Bonaldi, facciamo così, Bonaldi. Okay. Lei non ce l'ha direttamente in particolare con Miss Italia, credo, ma ha detto però che lei non ospiterebbe, o meglio non darebbe il patrocinio del comune, decisione però di tutta la giunta, quindi non sua personale, a concorsi di bellezza. Perché? Sì. Allora, mi dà l'occasione per precisare, non c'è nessun divieto. A Crema è un posto libero, ciascuno può fare ciò che vuole, basta che non si pretenga che siamo sempre d'accordo. Nel caso specifico è capitato in passato che ricevessimo richieste per dare patrocinio a come dire, selezioni proprio legate a Miss Italia, e la nostra amministrazione, composta allora più da donne, adesso siamo 4 uomini e 3 donne, ha detto di no. Abbiamo detto di no per il patrocinio, quindi le manifestazioni si possono tenere. Chiaramente il patrocinio dà modo di avere dei vantaggi, degli sgravi, sì, dal punto di vista dei costi, quindi non ci sarebbero. La scelta è semplice, non siamo dei bacchettoni, non siamo bigotti, semplicemente crediamo che quando si dà un patrocinio si testimonia anche un'adesione in qualche modo ideale. Ecco, noi pensiamo che la promozione della donna, delle donne, passi attraverso, diciamo, tanti canali e non solo quello della bellezza fisica. Ecco, forse è il caso di fermarci un attimino tutti e riflettere sul fatto che esaltare eccessivamente i canoni dell'estetica, della corporeità, forse non è il modo migliore per far crescere i nostri figli. Io ho una figlia sedicenne, quindi mi sono confrontata anche con lei, che è anche una ragazzina molto carina, subisce questo tipo di fascino. Beh, ecco, credo che come amministratori pro tempore e anche genitori è giusto anche dire ci sono anche altre cose, ci sono anche altri modelli. Allora, ci sono altre cose, altri modelli sicuramente, sì, però sì. Non è detto che chi partecipa a Miss Italia o chi vede Miss Italia pensi che c'è solo quel modello lì, magari è vero, esattamente però, quello che dice lei. No, sono d'accordo, ripeto, però la bellezza anche altro. Allora, la nostra, guardi, non è la prima volta che noi neghiamo un patrocinio. Sentivo il dibattito che avete appena chiuso, un anno circa fa ci fu chiesto il patrocinio per la presentazione di libri di un'autrice che si chiama Costanza Miriano, tra l'altro che ha scritto un libro, Sposati e si sottomessa, anche quello propone un modello femminile, come dire, per quanto io ritengo molto retrogrado, e dicemmo di no. Cioè, il patrocinio è in qualche modo anche un'adesione, no, morale, certo, questo, una testimonianza. Questo sì, però capisce? Diciamo, in sottofondo c'è comunque una presa di distanza, una polemica, una critica del concorso di bellezza in sé, ma e la domanda che, le voglio fare è questa: se oggi 2017, dopo che comunque sono stati fatti di molti progressi, tantissimi, possiamo dire che di fatto su molti aspetti c'è una vera pari, ci sono vere pari opportunità tra donne e uomini, anche nel mondo del lavoro ci sono ancora delle discriminazioni in qualche caso, ma sostanzialmente possiamo anche dire che il femminismo è entrato un po' nella testa di tutti, tant'è vero che le femministe in giro non ci sono più. Ha ancora senso oggi fare questo tipo di polemica, di battaglia? No, ma non vuole essere una polemica, semplicemente ripeto, cioè abbiamo secondo me il dovere anche di testimoniare alcuni valori. Le faccio questo esempio perché sono sensibile anche a questo tema. Pensi al numero di ragazzine che hanno problemi, disturbi legati proprio all'alimentazione, perché non accettano il proprio corpo. Allora, io credo che tutte le istituzioni, senza, ripeto, essere battistoni, io sono molto laica, però credo che abbiamo in qualche modo il dovere di fare qualcosa. Ecco, noi non ci sentivamo di agevolare, ecco, la veda così, agevolare manifestazioni che in qualche modo si risolvono in quell'elemento. Più delle volte poi Miss Italia parliamo comunque del corpo delle donne, ecco, le donne sono tante altre cose bellissime, tanti altri talenti, tante altre energie. Ma quindi... per esempio, secondo lei, diciamo, esaltando la bellezza puramente estetica di una donna, la si sminuisce in qualche modo? Si rischia di come dire, non esaltare altri elementi, altre. Però non dipende, dal contesto. Cioè, se stiamo a scuola e l'insegnante all'allieva dice sei bella per quanto sei brava, mettiamo, sicuramente quella è un'insinuazione stupida che non c'entra nulla. Ma un concorso di bellezza, oggi ci sono concorsi di bellezza maschili, per cani, gatti, per omosessuali, per tutti. Quindi non è più solo una questione, credo, non lo so, glielo chiedo, sì, femminile. Sì, sì, sì. Ma infatti varrebbe lo stesso se fosse mister, però francamente, ecco, diciamo che il bollino dell'amministrazione, che di norma dà il suo imprimatur a eventi e testimonianze, insomma, quando non si ce lo vorrebbe mai, non cultura, ce lo metterebbe, francamente, no, senza farne, ecco, sono anche un po' colpita di tutto questo clamore, glielo confesso. Però insomma sento anche il dovere, forse più come genitore, di esaltare altri sentimenti sociali. Sono genitore anch'io, tra l'altro, di due bambine piccole, però, ecco, insomma, quindi allora sono sensibile anch'io. Però le voglio chiedere, cosa ne pensa invece, per chiudere così, di una ragazza che va a un concorso di bellezza, o di chi guarda il concorso di bellezza così spassionatamente, forse ingenuamente, magari... Ripeto, non c'è un approccio giudicante, ribadisco, come ho esordito a Crema, e sono dell'idea che chiunque possa fare ciò che vuole, nel rispetto ovviamente degli altri, no? I diritti hanno questo di bello, valgono per tutti purché non siano eterolesivi, quindi non stiamo parlando di limitazione di un diritto. Semplicemente, ecco, noi abbiamo inteso il bollino del comune anche come un'adesione ideale, quindi, francamente, un modello che ci va stretto. Quando in televisione si propone Miss Italia in diretta, eccetera, una decisione che lei trova, come dire, contrasta, se fosse per lei non la farebbe la diretta televisiva, mi sembra, quando, e per molti anni è stata della Rai, adesso non so più se è della Rai, credo che sia della 7, non è più della Rai. Non so, io dico che forse come paese, come società, dobbiamo un po' interrogarci sui modelli che proponiamo, e glielo dico veramente in modo laico, però in realtà sembrano banalità, però abbiamo un po' tutto il dovere di come dire, porci degli obiettivi un po' più alti, secondo me. Va bene, la ringrazio, sindaco grazie, di Crema. Grazie a lei. Stefania Bonaldi, benvenuta. Grazie. Buonasera. Grazie. Ah, benvenuta prima. Giovanni da Milano, vai, benvenuto tu. Buonasera. Sì. Senta, io facevo una riflessione, no, a proposito dei migranti. Sì. Io vedo che la maggior parte dei negozi italiani chiudono e i negozi stranieri aprono. Io parto da un presupposto. Se la Francia, che è un popolo che penso che sia all'avanguardia al mondo, un popolo libero, un popolo tedesco, non accettano i migranti, se non a determinate condizioni, io non credo che noi italiani siamo più evoluti rispetto a loro, che li accettiamo. Vuol dire che accettare queste persone sono più gli svantaggi che i vantaggi. Non è che non ci sono dei vantaggi ci sono. Però vuol dire che se questi popoli che sono più evoluti di noi... Popoli che sono più evoluti, Giovanni, però sono anche paesi nei quali c'è una percentuale di stranieri più alta che in Italia, perché sono in Francia c'è un'immigrazione molto più antica che in Italia. E tra l'altro, se parliamo di negozi gestiti da nordafricani, in Francia è pieno. Probabilmente questo è uno dei motivi per i quali adesso questi paesi hanno tirato il freno a mano. La ringrazio, buona serata Giovanni. Buonasera, buonasera. Orlando da Campobasso, vai. Buonasera, io volevo solo dire che Minniti, con questa uscita che ha fatto della percentuale del 10% di diminuzione dei clandestini che arrivano, sì, è solo perché lui è diventato un bancomat, come lo è stato Gentiloni per quelle due ragazze che per 40 milioni mi pare. Gentilone, Orlando, però sì, il calo è più del 10%, è molto più alto. Sì, ma è solo momentaneo, perché se sì, luglio-agosto è un fatto propagandistico, nulla di più. Perché no, propagandistico è un dato di fatto. Poi uno può dire che non è merito di Minniti, però non è un fatto propagandistico, è un dato che c'è un calo di oltre 70% nei mesi di luglio-agosto, mese e quindi, su mese. E quindi è una questione che serve solo a dimostrare che può essere regimentata, nel senso più positivo per noi, che questa è tutta gente che viene dall'Africa, viene portata qua illusa, che c'è il Bengodi e poi magari affogano e poi noi quasi facciamo pure un motivo di rimorso. Quindi secondo lei questo calo, che è più di quello che diceva lei, è strumentale, però ha appena detto invece che è la dimostrazione che il flusso migratorio si può controllare. Certo, anche interrompere se si vuole. Però e allora perché è strumentale? Perché qua c'è gente che ci lucra su questi immigrati, c'è gente che stava in fallimento solo perché teneva un albergo sfitto, eccetera, adesso fa fior di milioni. Però perché allora, scusi, non la seguo, lei dice che c'è chi fa gli affari, c'è chi fa i soldi sui migranti, quindi è un business, eccetera. Adesso che c'è il calo degli sbarchi mi dice ma questo calo è solo propagandistico, è solo strumentale, perché non capisco, perché, non la seguo, perché praticamente cioè sono stati tolti come dire a soldi a questi affari, sono stati soldi risorse a questi affari di cui lei parla, perché propagandistico? Perché è solo momentaneo, perché queste bande di libici hanno bisogno di denaro che poi ricicleranno certamente in armi e in attentati vari che non riusciremo più a controllare, ma dietro secondo me c'è sempre l'ISIS che controlla questa gente qui e gli dice quello che devono fare, e certamente ed è un tutto che servirà solamente a noi a indebolirci, perché qua i problemi ci hanno inguaiato un territorio con tutta questa gente che perché gira. Ci stiamo indebolendo, mi scusi, non capisco perché non siamo più sicuri di stare di andare in giro con le famiglie o lasciare libera una ragazza una serata con gli amici, perché si rischia sempre che può essere aggredita, e succedono di queste cose, e poi il territorio è inguaiato per la prostituzione, per la droga che gira, lo fanno solo loro, lo fanno. Va bene, Orlando, grazie, buona serata. Buona serata, Borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Allora, io trasformerei il concorso di Miss Italia come il premio per la donna più intelligente, più brava, più lungimirante, più sociale addirittura. Chissà che vuol dire più sociale, più impegnata forse nel sociale, scrive un ascoltatore dopo l'intervista al sindaco di Crema, Stefania Bonaldi. E io invece sogno un giorno nel quale saremo talmente liberi da questi preconcetti che potremo fare tutti i concorsi di bellezza che ci pare, di bruttezza pure se volete, senza doverci vergognare o fare dei turbamenti. Francesco da Modena, benvenuto. Sì, salve, buonasera. Vai. A tutti. Sono consigliere di un piccolo paese nella provincia di Modena. Sì. Noi 2 anni fa abbiamo portato i migranti nel nostro territorio a pulire quanto sono i parchi e i laghi del nostro territorio, quindi eravamo già a titolo totalmente gratuito, cioè non doveva esserci nessun compenso dietro. noi siamo una lista civica di centrodestra e abbiamo portato avanti questi progetti ancora prima che venissero fuori a livello giornalistico, proprio portando anche una mozione in comune. Sì, beh, no, ma non è questione giornalistica, c'è proprio una legge in Italia, no? Lei, se è consigliere comunale, lo sa, c'è una legge che prevede che chi riceve dei sussidi, dei sostegni economici, possa essere ingaggiato su base volontaria in questi lavori solamente utili. Sì. Però non aveva fatto nessuno del nostro comune, diciamo, l'amministrazione attuale non aveva proposto niente a queste persone qua che comunque erano presenti in paese. Io ho parlato con loro, mi sono confrontato con loro, dico sinceramente, per quanto uno può essere scettico o meno, c'era anche delle brave persone, c'ho avuto modo proprio anche di sedermi a pranzo con loro, quindi non posso dire che sono tutti cattivi. Dico che queste persone non venivano da zone di guerra e lo ammettevano anche loro, tutti avevano un lavoro nel loro territorio e loro dicevano che migravano perché volevano cercare un lavoro migliore in Italia e tutti volevano rimanere in Italia. Ora, sicuramente ci sono delle brave persone in mezzo, ne sono straconvinto, però ho avuto un esempio che c'era un ragazzo comunque che si parlava di religione, questo ragazzo era stato isolato da alcuni di loro, alla fine quando sono tornato un mese dopo per salutarli mi ho chiesto dove era questa persona qua, hanno detto quello era una persona estremista e adesso è scappato, non sappiamo dove è andato a finire. Quindi per dire, è entrato, io un po' che sostenevo questa cosa qua che entrava della gente, insomma, probabilmente anche pericolose per il nostro territorio, ed è successo. E, cioè, io ho avuto l'esperienza proprio per quanto riguarda il mio comune, poi dopo, per amore di Dio, non è che saranno tutti brutti e cattivi, ci mancherebbe. Questo, Francesco, questo vale sempre, buoni e cattivi. Se potessi avere la bacchetta magica, soprattutto per chi non ha diritto ad una protezione in quanto profugo, allora lì bisognerebbe fare uno screening alla nascita, no? All'ingresso, per chi non ha diritto, per chi, come dice lei, non viene da luoghi di guerra. Chi viene da luoghi di guerra si è deciso di non fare nessuno screening perché giustamente sono persone che rischiano la loro vita, allora c'è un diritto internazionale che concede questo status. Poi è tutto molto discutibile, migranti economici, profughi, eccetera. Grazie Francesco. Valerio da Roma, vai. Sì, ciao, buonasera a tutti. E io volevo innanzitutto fare i complimenti a Francesco che ha fatto questa iniziativa e poi come lui mi riallineo ai commenti nei confronti del sindaco di Crema. Io sinceramente la ritengo riduttiva il suo punto di vista, non assolutamente pragmatico come dovrebbe essere quello di un sindaco, questo nel senso che dovrebbe patrocinare non soltanto Miss Italia, ma anche manifestazioni relative alle disfunzioni alimentari, manifestazioni relative ai femminicidi. Cioè, in poche parole, la bellezza non deve essere vista come un qualcosa che sminuisce. E lei, lo penso anch'io. Anzi, se poi ci vogliamo fare se poi vogliamo avvicinarci a un discorso ancora un po' più ampio, per carità, questo qui si potrebbe fare un po' su tutto, pure su i vaccini, sulle medicine in generale. Cioè, che c'entrano i vaccini? Adesso mi tiri fuori no, i vaccini. Più ampio del discorso. Cioè, tu mettimi in grado di scegliere, dandomi appunto informazioni sul femminicidio, informazioni sulla bellezza, informazioni sui disordini alimentari, e poi io decido se andare o non andare a Miss Italia. Però la bellezza non può essere considerata di punto in bianco, senza informazione, un qualcosa che sminuisce la donna. Il discorso della sindaca di Crema è che in presenza ancora di discriminazioni o di ragazze che hanno disturbi alimentari perché vedono, hanno una immagine femminile tutta ad un certo tipo, allora in presenza di queste cose è sbagliato fare il concorso femminile. Se non ci fossero queste cose sarebbe un altro mondo e sarebbe più bello, si potrebbero fare tutti i concorsi di bellezza. Questo fra l'altro è come la penso io non credo in assoluto che sottolineare la bellezza di una ragazza sia un modo per sminuirla, tutt'altro, soprattutto se parliamo di situazioni dove non ci sono costrizioni, non ci sono disordini alimentari, che cacchio, se no uno non può più neanche fare un complimento a una ragazza. Il discorso del sindaco di Crema è che siccome tutto questo ancora non c'è nel nostro paese, allora è sbagliato fare questi concorsi. Quindi bisogna valutare se è vero che ci sono ancora queste discriminazioni nei confronti delle donne, dopodiché si può parlare del concorso. Valerio, miti, se non informi sui falsi miti è chiaro che poi anche il concorso Miss Italia diventa una pietra dello scandalo, però se tu invece parli, guardate che non è quella la vera, non è quella la verità, non è solo quella la verità, allora a quel punto vedrai che andiamo tutti quanti a Miss Italia, ci facciamo una bella risata. Oltretutto l'ultima Miss Italia mi sembra anche un po' in carne, sì. Ora adesso non vorrei dire, per cui attenzione perché poi arriva subito la critica perché hai detto che era in carne. No, sai cos'è la cosa che io trovo più incredibile? Quando fanno parlare Miss Italia di altri aspetti di impegno sociale, dei loro hobby, dei loro interessi, cioè quindi valorizzare anche altri aspetti della donna, ma glielo fanno fare mentre sono magari sedute in costume con la coscia accavallata, e allora lì è abbastanza imbarazzante, no? Perché certo. Che la fai parlare con le cosce di fuori, puoi giudicare la sua bellezza, dopodiché altro è valutare gli altri aspetti della personalità, ma non in costume. Questa è come la penso io. Valerio, grazie, ciao, buona serata. Ciao, buona serata. Fausto da Roma, vai. Buonasera. Ecco. Dunque, io vorrei fare solo due obiezioni a quello che è stato detto fino ad oggi. Ci vuole un anno e mezzo per avere l'opportunità di rimanere o no in Italia. Allora, invece di pagare qui 37-40 euro, non so quanto è che gli viene dato ogni giorno a queste cooperative bianche, rosse e blu, diamo 5 euro nel loro paese, dove 5 euro ci mantengono una famiglia, perché un anno e mezzo a 40 euro non sono i 5 euro per due anni. Non solo, ma tutti quelli che scappano, buonissima parte sono delinquenti, perché se qualcuno conosce le galere africane, dove io ho lavorato e conosco molto bene, io non l'auguro al peggior nemico, al peggior assassino, di finire in una delle loro carceri. Un diplomatico africano, sai che cosa mi ha detto? Cosa? Io gli ho detto, ma questi rischiano la vita attraversando il mare. Non rischiano la vita, sanno con chi devono andare. Questo detto da uno di loro, eh? Vabbè, faccia il commento, sì. Adesso. No, Fausto, io dire che buonissima parte vengono dalle galere mi sembra una proporzione, non lo so, ci vorrebbe una fonte dalle galere, perché sì, preferiscono rischiare la vita in mare e non la rischiano, piuttosto che finire nelle loro galere, perché nelle loro galere campano pochi anni, anzi forse un anno e già sono morti. Basta fare un giro nelle loro carceri per rendersi ma questo, conto questa parte del discorso forse ci può anche stare. Quello che è un po' è più contestabile la questione dei 5 euro, no? Perché potremmo essere d'accordo con te, diamogliene 5 nel loro paese, ma questo andrebbe fatto prima che sbarchino, prima che arrivino, quando sono arrivati. Appena arrivano, guarda, io ti do 5 euro nel tuo paese, perché tanto sicuramente tu non hai diritto a rimanere qui, perché non vieni da un paese in guerra e non hai sicuramente il diritto di asilo, quindi io ti do 5 euro, ti pago, cioè ti consegno il pocket money, che ne so, di un anno, quello che viene chiamato così, e ti rimando indietro. Questa potrebbe essere una rivisitazione, diciamo, degli standard di protezione internazionale, che non le decidiamo io e te, ma sono stati decisi per un anno e mezzo da altre persone. Euro. Va bene, Fausto, grazie, buona serata. Ci abbiamo i titoli del TG3? Sì, sentiamoli. Buonasera dal TG3, nuovo incontro tra governo e sindacati per parlare di pensioni, soprattutto quelle dei giovani. Sul tavolo l'ipotesi di un assegno minimo da 650 euro se mancano i contributi. Discussione aperta e distanze immutate sull'adeguamento degli assegni alle aspettative di vita. Ne parleremo, adesso vediamo gli altri titoli del giornale. Una lite fa scoppiare un vero e proprio assalto a un centro migranti di Roma nel quartiere Tiburtino Terzo. Ferito un eritreo, dopo gli sgomberi si cercano soluzioni all'emergenza abitativa. Anche per l'agenzia Moody's la ripresa in Italia si consolida, la crescita sarà superiore al previsto. Gentiloni, impegno perché la fiducia nell'economia porti più lavoro. Stretta sulle malattie dei dipendenti pubblici, da settembre sarà l'INPS a fare le visite fiscali e i medici potranno bussare alla porta anche più di una volta al giorno. Dopo il lancio del missile nel Mar del Giappone, l'ONU prova a fermare Kim Jong-un, che però minaccia: il prossimo obiettivo è Guam. Trump: non è il tempo del dialogo. Rimini, la transessuale peruviana, riconosce dalle immagini della polizia scientifica i quattro responsabili dello stupro. Stamane incontro tra magistrati polacchi e italiani. Non si attenua l'emergenza incendi spesso alimentati da inneschi dolosi. Il TG3 nel Parco Nazionale della Maiella che brucia da giorni e dove i cittadini si organizzano per fermare i piromani. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 1, 2, 3, 4. Get up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Allora, è con noi il direttore dell'agenzia del Demanio, Roberto Reggi, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, dunque, 43 immobili del Demanio, se abbiamo letto bene, in concessione gratuita ad altrettanti giovani per attivare dei progetti imprenditoriali, no? All'interno di un progetto stesso che si chiama Cammini e Percorsi, riguarda il turismo. In un paese, Reggi, nel quale si dice spesso, e ha ragione veduta, che non ci sono grosse opportunità per i giovani, opportunità di lavoro imprenditoriali. Questa è una buona, mi sembra buonissima notizia questo bando. Ci spiega meglio? Sì, effettivamente il bando si propone l'obiettivo intanto di recuperare immobili pubblici dello Stato, degli enti locali, che sono oggi abbandonati o comunque poco utilizzati, mettendoli a servizio del cosiddetto turismo dolce, quel turismo fatto di camminatori, di ciclo turisti che percorrono i cammini storici della nostra, del nostro paese, oppure le ciclovie, e nello stesso tempo dà la possibilità a imprenditori, soprattutto giovani sotto i 40 anni, di fare investimenti e quindi generare lavoro per professionisti, imprese nel settore anche dell'edilizia, che ha molto bisogno di essere sostenuto. Di che quindi, tipo di immobili stiamo parlando, per capire, per visualizzare? Sono immobili di varia natura, edifici storici, artistici, parlo di castelli, di forti, di ville, oppure manufatti che sono legati a sistemi di reti locali, caselli idraulici, caselli stradali, case cantoniere, quelle che si vedono spesso lungo la strada, spesso e volentieri abbandonate, oppure palazzi molto belli, ma sì. Fattorie, rifugi, case forestali, insomma una tipologia molto varia di beni che oggi sono, diciamo, senza valore, a meno che appunto non vengano messi a disposizione di un progetto, che è il caso appunto di cammini e percorsi. Però spesso e volentieri, ahimè, capita che bandi diciamo meritevoli, ben intenzionati come questi, come altri, non so se è il caso di questo, vadano, non dico deserti, ma insomma si fa fatica a raccogliere adesioni, perché quando si tratta di dire che va tutto in malora, che lo Stato crolla, sono tutti quando si tratta di presentare un progetto non è semplice, e poi spesso questo me lo faccia dire, non c'è magari tanta informazione, tanta comunicazione su questi bandi, quindi finisce che ci sono poche domande. Al momento glielo vorrei chiedere, da quanto siete partiti e quante domande ci sono già? Beh, diciamo che noi prima di fare questi bandi l'abbiamo già fatto con i fari costieri, che hanno avuto un successo straordinario. Facciamo precedere il bando da una consultazione pubblica nella quale chiediamo a tutti i soggetti interessati, ai cittadini, alle associazioni, agli imprenditori, di fare delle manifestazioni di interesse non vincolanti. Queste manifestazioni di interesse ci orientano per capire qual è il bisogno di quel territorio e quindi il bando viene poi calibrato su quel bisogno territoriale, e devo dire che sui fari non abbiamo avuto nessun bando deserto. Quali sono i numeri sui bandi, sui fari? I fari sono 24, ne abbiamo aggiudicato, ci sono state oltre 100 progetti di valorizzazione anche di grande valore, di qualche milione di euro per ciascun intervento, per intendersi. Qui stiamo parlando invece di beni molto più limitati, almeno questo primo blocco rivolto ai giovani, stiamo parlando di concessioni, quindi di affitti a canone zero, locazione zero. Quindi la regola per è... Per 9 anni più 9. Ecco, esatto, 9 anni più 9, affitto a canone zero, cioè io te lo do gratis, sì, in cambio tu che cosa devi fare? Di un investimento per recuperare il bene a servizio dei camminatori e dei cicloturisti. Mettiamo che l'investimento, Reggi, sia importante per restaurare una di queste case cantoniere, una di queste castelli, è molto importante. 9 anni più 9 per un imprenditore sono sufficienti per rientrare dell'investimento? No, in realtà no, infatti abbiamo diviso il blocco di beni in due. Il primo blocco di 43 che attualmente sono a bando, sono i più piccoli, quelli che richiedono investimenti più limitati. I beni che invece richiedono investimenti molto più rilevanti li metteremo in un secondo bando che partirà a ottobre, dove lì non ci sarà una locazione zero, ma una locazione inversamente proporzionale all'investimento fatto, con un tempo però di recupero di 50 anni. Più lungo. Quindi sarà possibile fare investimenti più rilevanti avendo un tempo di recupero molto più rilevante. È lo stesso concetto che abbiamo usato per i fari costieri. Tutto sembra molto, molto logico e scorrere bene verso nel buon senso. No? Poi naturalmente io non no, ho letto il bando e quindi non posso... Avuto, sì. Quasi 24.000 manifestazioni di interesse per 100 beni. Questo è molto positivo. Diciamo però Reggi, le voglio fare un'altra domanda. No? Fin qui tutto bene, posto che io non ho letto il bando, non sono un tecnico, però insomma, stando un po' sul sito. Sì, poi comunque un po' di stampa su questo c'è già stata. Sì, il sì. Dubbio però spesso, no? Il sospetto, sì. La paura è che sì, ci sono le manifestazioni di interesse, c'è il bando pubblico, ma poi sono sempre gli amici degli amici, no? Che ottengono il bene, che ottengono la concessione, che hanno la possibilità. Chi seleziona questi progetti? In base a quali criteri? Beh, c'è una commissione istituita dall'Agenzia del Demanio che verifica la qualità del progetto, in questo caso nel primo blocco di beni solo la qualità del progetto, e le assicuro che avendolo già sperimentato negli ultimi 3 anni con i fari costieri non abbiamo avuto nessun ricorso, proprio perché la commissione lavora bene, valuta la qualità del progetto. E nel caso del secondo bando, quello di ottobre, verrà valutata anche l'offerta economica, cioè una formula matematica che conterrà il tempo concessione, l'investimento che si intende realizzare e il canone che si intende pagare. Queste tre variabili finiranno in una formula matematica che dà il valore economico, che vale il 40% di peso rispetto alla qualità del progetto, che vale il 60%. Questo è un meccanismo che, ripeto, ha funzionato molto bene con i fari costieri e pensiamo che anche su questi beni lungo le ciclovie e i cammini funzionerà altrettanto bene. Quindi chiunque imprenditore o anche aspirante imprenditore che voglia approfittarne sappia, credo che sul sito del Demanio ci siano tutti i giovani sotto i 40 anni. Sotto i 40 anni. Si va sul sito del Demanio, ci sarà il bando sicuramente. Indicazioni. Quante pagine sono? Quanti consulenti bisogna avere? Mezza paginetta, è davvero molto semplice. Sì, bene, anche qua diciamo sono buone notizie. Speriamo. Senta, però diciamo alzando un po', no? Spostando un po' il tiro, alzando un po' il livello, perché quanti sono i beni del Demanio che sono a disposizione? Perché questa soluzione, no? Ti do in concessione il bene gratuitamente, tu lo ci investi sopra, lo usi, ci crei un'attività, sembra una cosa in cui vincono tutti, non c'è rimessa, vince lo Stato, vince l'impresa, vince il territorio che ci guadagna, vince il contribuente, perché spesso questi beni hanno bisogno di manutenzione e in questo caso lo Stato si scarica di queste spese. Esatto. Perché fino ad oggi si è fatto molto poco? Ma perché in passato si pensava di piazzare singoli beni con bandi singoli ed è sbagliato. Abbiamo visto che oltretutto li si metteva a bando senza averli regolarizzati dal punto di vista catastale, urbanistico e documentale. E quindi l'investitore non si avvicinava al bene. Oggi l'Agenzia del Demanio ha cambiato completamente strategia. Prima di mettere un bene a bando viene regolarizzato da tutti i punti di vista, quindi i rapporti con l'amministrazione locale per la variante urbanistica che sia coerente. È già con tutto a posto. È già tutto a posto, quindi l'investitore sa che non deve fare la trafila infinita senza tempi, no, per prima di fare l'investimento, ma nel momento in cui si aggiudica la concessione può far partire la betoniera, per intendersi, no? Quindi è ad attuare il progetto che avevi in mente. Non so il motivo per cui adesso funziona. Non so se anche le caserme, le ex caserme sono di sua competenza, cioè sì, di competenza sì, di una... Le caserme diciamo che è un compendio molto più complesso, perché per dimensioni richiedono milioni di euro di investimenti, e noi le stiamo recuperando al servizio della pubblica amministrazione. Ecco. Il ragionamento è molto semplice. Sì. Noi oggi paghiamo ancora 800 come Stato, 850 milioni di euro di affitti passivi a privati, pur avendo tante caserme e tanti immobili vuoti. Allora stiamo facendo un'operazione di realizzazione dei cosiddetti federal building, che in sostanza recupera questo progetto nazionale un numero rilevante di grandi caserme e concentra in queste grandi caserme le funzioni della pubblica amministrazione di una città. Sì. Abbattendo la locazione passiva, certo, una sorta di un banale trasloco, cioè si abbandonano i palazzi in affitto si investono, supponiamo 30-40 milioni, tra questo è l'ordine di grandezza del recupero di una caserma, e si recuperano in genere 5-6 milioni l'anno di affitti passivi, per cui nel giro di 7, 8, 9 ci si è già anni. Guadagnato, ci si esatto. è già guadagnato. La proposta fatta da Milena Gabanelli quando era conduttrice di Report, poi portata anche in Europa, su cui si era trovata ancora disponibilità a trovare dei fondi, di usare le caserme, ristrutturarle e ospitarci i benedetti profughi, che il solito ragionamento: ci si investe sopra, le caserme ristrutturate poi restano comunque in mano allo Stato, nel frattempo si risolve anche un problema che ha comunque un costo, cioè lo Stato assorbe a sé questa funzione di ospitare i profughi. Sarebbe possibile, secondo lei? Sarebbe possibile, ma sconsigliabile, nel senso che le caserme sono talmente grandi che sono difficilmente, diciamo, convertibili in un'accoglienza limitata, di gruppi limitati, no? Che è poi la strategia del governo, cioè di mettere piccoli gruppi distribuiti sul territorio. Valgono molto di più immobili più piccoli di dimensione. No, non possiamo fare a meno di non pensare agli hub, ma questo succede già. Sugli hub già vengono utilizzati immobili pubblici. Gli hub che sono? Che sono i centri di smistamento, quelli dove appunto arrivano i profughi, poi vengono solo temporaneamente, in quel caso lì sì. Sì. Però per, diciamo, la sistemazione definitiva, comunque più lunga, le caserme non sono date per la dimensione che hanno. Benissimo, dal suo punto di vista non è fattibile. Grazie, devo chiudere perché non abbiamo più tempo a disposizione. Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, grazie, è tutto. Noi ci risentiamo domani con Si può fare 18:20. Un ringraziamento ad Alessandro Longoni, Riccardo Poli, Andrea Spenuso in redazione, Roberta Frisani in regia. Ciao ad Alessio Maurizio. Ciao.